Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. La volta scorsa abbiamo visitato l'Arco di Costantino. Non possiamo allontanarci da quest'area di Roma senza dare un'occhiata al Colosseo. Il Colosseo è uno dei monumenti più celebri in tutto il mondo, celebre e simbolo della città di Roma. C'è una mostra in questi mesi che parla del Colosseo in modo un po' originale. Si intitola Colosseo, un'icona, e racconta non tanto la storia gloriosa di questo edificio, cioè quando nel 70-80 d.C. venne inaugurato come grande colossale anfiteatro dalla famiglia dei Flavi. Qui si fecero gli scontri dei gladiatori e poi, quando arrivarono i cristiani, purtroppo molti cristiani subirono il martirio all'interno di questo monumento. Ecco, però la storia di questa mostra è un'altra. Ci racconta come questo monumento è sopravvissuto fino ai nostri giorni. Come diceva Mark Twain, questo monumento, che sembra una capelliera piena di buchi e finestre, rotta da una parte come se avesse ricevuto un morso. In effetti è ridotto malissimo. Ma come mai è ridotto così? Beh, intanto, quando si terminarono i giochi, questo monumento non serviva più a niente, e i romani cominciarono a estrarre pezzi di travertino usandolo come cava di marmo. Tra l'altro tolsero le preziosissime grappe di metallo che tenevano insieme i blocchi, e quindi il monumento ci appare tutto bucherellato, perché hanno tolto tutte queste grappe quando c'era molta fame di metalli. Le miniere non funzionavano più e i monumenti erano appunto delle cave di ferro e di metallo. È sopravvissuto il Colosseo anche perché nel Medioevo si aveva paura di questo edificio, ci si era dimenticati che cos'era, si pensava fosse il luogo degli spiriti malvagi, degli spiriti pagani, quindi la gente si avvicinava poco. I Frangipane, che erano una famiglia meno paurosa, ne fecero una fortezza, e questa fortezza salvaguardò la parte che c'era rimasta sotto. Poi, a un certo punto, e la vera salvezza è questa qui, la chiesa, siccome ricordava che in quell'arena erano morti molti martiri, decide che il Colosseo è un luogo sacro. Anzi, si fa un progetto, che per fortuna non è stato realizzato, di costruire una chiesa barocca proprio al centro del Colosseo. Però questa attenzione fa sì, e siamo già nel 1700, che si comincia a studiare il Colosseo. Quindi, per esempio, si studiano le piante e i fiori che nei secoli avevano popolato l'intero monumento, un vero e proprio giardino botanico, e poi si comincia, ripulendo le piante e le arbusti, a restaurare piano piano l'edificio, e così si arriva all'Ottocento, quando i papi decidono che questo monumento non deve essere più toccato e deve diventare uno dei luoghi di attrazione, appunto come mi trovo io oggi, del Grand Tour di tutto il mondo.